Io ci sono, Fuaser. Perché la vuoi spegnere? Cosa ne fai? Cosa ne fai? Vedi, perché? È meglio qua. Va bene, rimaniamo qua. Rimaniamo qua. Buonasera, 27.105 volta FM. Banda 11 metri. Banda uniforme. Cosa c'è di Z? FM. Ho detto FM, frequenza modulata. Banda 11 metri. Chiava. La banda più bella che c'è. Lo puoi dire forte. Oh, ha piovuto, ma c'è caldo però, anche fuori c'è caldo, io gioco maglietta mare che gocce, no? Che blu. Comunque sta bene. Dentro caldo sì che si sta bene. Ma sono uscito anche fuori, non si sta male. Non c'è quel freddo brutto. Davvero? Non lo so. No, ci sono uscito. Vabbè che c'ero tutta la sera fuori facendo quel lavoretto. Ma poi non ci sono uscito più. Sì. Se va bene. Vorrei fare una cosa, però non ho voglia. Fare una modifica, però non ho voglia. Ce la facciamo, me la faccio sabato mattina qua. Capo. Ora di fare modifica. Bah. Tutte le ore sono di Dio. Però se manca, come si dice, l'entusiasmo non bisogna farla, bisogna farla quando c'è entusiasmo, fra. E allora. E certo. Sì. Esciami. Dai, vabbè. Arriva a prendere i stazionari in Oga, ma no, va bene. E non ha piovuto tanto, dai. Non credo che si sia riempito, che c'hai umidità in antenna. No, è bello fermo. È fermo l'ago della stazionaria. Anche qua, grande fratello, porca miseria, baita. Vabbè, io sono in radio, non me la futti nuda, però a me solo a sentire la sigla mi fa nervosire sta gente. Asini somari. Quello è un grande con la P e basta. Quello è uno schiaffo a chi lavora tutto il giorno, capito? Quello è uno schiaffo che lavora tutto il giorno. Vabbè, che da tasca nostra non esce niente, perché devi già sponsorizzare tutto Mediaset. Quello è tutto fatto da Pier Silvio, che per fare ascolti il lunedì notte non c'è niente, quindi lo danno fatto apposta, non vedo, lo danno il lunedì notte che non c'è niente in televisione. Già lo so, già. Purtroppo è così, ma che vuoi fare? Anche loro devono guadagnarci qualcosa. Certo. No, ma loro non hanno colpa. La colpa è di chi investe su di loro, e la do anche a chi la guarda. Anche perché se non avrebbero fatto ascolti non avrebbero dato di si bucarì. L'avrebbero immediatamente chiusa. Esatto, tutti sfrattati. E vabbè. Comunque, parliamo di cose più serie. I trattori c'erano anche io già a Porto Torres facendo mezzo bordello. E non solo a Porto Torres, da tutte le parti sono. Da tutte le parti. E speriamo che non si venga a negoci. Ma sa. Puniva tutti i suoi voti. Ehi, vabbè. Vabbè, portatore, sì, c'erano, i trattori ci saranno stati, ma facendo il carnevale magari. No, c'è un filmato in Facebook, c'è un carnevale. A questo loro garasciare tutto l'anno. Bra, è tutto l'anno lo garasciare, che è una bella del giro, ma tutto l'anno. No, era roba manifestando. Ma dice che c'era Salvini a Sassari oggi, così è. Non ho capito, cosa? Dice che c'era Salvini a Sassari, vero? Non sai nulla. No, ho visto una foto, ho visto che era Sassari con la politica sassarese, però non lo so se era Sassari. E dice che stava girando nel centro storico. Davvero? No, non ve l'hanno fatto gli rabbeghi sul centro storico, dai. Vabbè, l'hanno arrivato male, vabbè, io. Se aveva arrivato ieri a bere un centro storico, guarda, però la sua dovrà girare e trovare un centro storico, ma va bene. E allora, ma solo il coso mi devi abbassare, il Rugorso, all'inizio del Rugorso, attende. L'avranno fatto passare in coso, l'avranno fatto andare in piazza Castello e bu. Sì, però devono farlo andare a quest'ora. Cappa. Sì, sicuramente l'hanno fatto passare, l'hanno portato in piazza Castello, gli hanno fatto vedere, l'hanno portato giù a vedere tutte le cose. Sì, invece è arrivato bassa a Diotti. Se aveva arrivato bassa a Diotti si sarebbe reso conto, oppure una settimana di vacanza. Si sarebbe reso conto, anche lui. Ma non solo a Sassari, in tutti i luoghi. Dovrebbero farlo passare a Porto Torres sabato notte, che non c'è un'anima, che se ti curi che mezzo strada non ti investono neanche, perché non passa una macchina. Sarei vergognato, Gaspo. Per carità. Che città morta che è quella lì. Ma non era così, negli anni 90, 2000, non era così Porto Torres, è proprio... Secondo me il problema è proprio i social che hanno imbambolato i ragazzi e la gioventù, perché prima si usciva e se andava in piazza, non gli andava di scrivere in piazza o della graffetta del quartiere, però si scendeva in piazza, era un mondo, un gnasino in piazza, era una sera d'inverno. Adesso la gioventù è imbambolata da internet. Quella roba ha rovinato un bel di gente. C'è chi si è fatto miliardario e chi si è rovinato. Bravissimo, internet non ha avuto mezze misure. Internet non ha avuto mezze misure. Chi l'ha saputo usare ha preso e è diventato miliardario, è vero. E chi lo usa per sbirciare, come possiamo fare noi e queste cose qui, ormai noi è così, però i ragazzi li imbambola e non escono, non si ritrovano e non cosa fanno? Mio avviso, o non c'è gioventù oppure sono tutti imbambolati a casa. Sai cos'è? Non è più come una volta, i ragazzi di una volta erano diversi, uscivano, si incontravano, pure si sbigliavano in un'imbriaghiera, però finiva in ghibi e buonanotte. Ma i vecchi avani sono sempre, i bizzini davanti sono sempre con la violenza in bocca, sempre sono prepotenti, fateni danno. Ma non lo vedi che i noga varani da Senna arrivarono di Chio, fareni in assusso, no, a casa sua, i bizzinotti, mezzo imbriaghi, masce e femmine. Anche i cartelli, le segnalitiche, ne ritrazzano, li dirano in due e in tre, ne ritrazzano e ripaccano. Perché ci vuole le ronde di carabinieri e polizia e fra. È fatto pagare, però neanche fatti pagare, presi e come si faceva un tempo, come facevano un tempo i carabinieri, no? Allora una volta un carabiniere mi ha trovato senza casco e morto, col casco messo male, pigliato un affermo, si è fatto dalla macchina, ma tu non ci fa capo. Mi ha detto, non te l'ho detto verbale, no, a te. Non lo sai che tu non ti ribongo verbale a te. A che intanto verbale lo bagava Budù. Mi sa, non è vero, più travagliavo. Però, da se vuoi avvaro lo splendido. Ma te ribongo verbale, no, a te ti bilacciaffi. Infatti, ma tu già fa capo, ma poi c'è un casco. Ci vorrebbe una cosa del genere, come facevano i carabinieri prima, che dicevano che erano miserabili. Non erano miserabili, ti insegnavano l'educazione. Ecco, ma sì, e vabbè, tu magari te li travagliavi, no, non te li pagavamo due, quella lì dove te li pagava il babbo, se non era travagliente, ma Maracana te lo devi pagare. Certo, gli doveva pagare il pazzo. C'è maleducazione fra un me. Poi prima sì, anche prima c'erano le violenze, anche prima di vadice, ma prima nasceva la zuffa, ti bigliaccia ciaffe, cazzata a capo, a cosa, vanno in televisione oppure si fanno questi video su Instagram e tutti vogliono essere violenti. Ah, poi magari li biglia, poi magari li prendi singolarmente, dico un buffo e si bisciano dritti. Infatti è così. Sto pensando a altre cose. Non è come prima. Adesso ha cambiato il mondo. E mi pare che questo mondo dura poco se continua così. È vero, fra. Anche io ho paura di quello, che noi siamo quasi arrivati, cioè siamo arrivati, però ancora ci manca il tastino, quando schiacceranno il tastino siamo proprio arrivati, e cosa vi vuoi va? Aspetta, prima c'erano le feste, nelle salette, nelle cose, va, inutile, paccare dai, quanti sono combinati. Sono anche i genitori che ci sono adesso, che prima un genitore inquadrava il figlio al mondo del lavoro, lo inquadrava a fare, a impegnarlo mentalmente, a non farlo. I ragazzi che cadevano nella droga non erano in percentuale come sono adesso. Sì, c'erano quelli che purtroppo nella vita si può sbagliare e qualcuno ha fatto lo sbaglio. Ma adesso stanno sbagliando tutti questi ragazzi, non c'è, le persone picche più, le più insospettabili fanno uso di cocaina, di cose, ma per piacere, ma pacari dai, chi sono, uno schifo. Buonasera a tutti, buonasera Antonio, da questa parte. Non vi vorrei dire, come te era una voce, una bella abbassata di caffiotti. Vedrai che si gaimane, che si bizzinne. Così è tu. Non ci sono più i ragazzi di una volta, purtroppo è così. E come ti dicevo, capita, prima la cosa durava di più, le macchine erano più belle. Ma fanno perché sono più le macchine di una busta, adesso cioccolatini, mettere ad occhio si chiccia, e i cuscini, avanti capì. Comunque buonasera Antonio, avanti capì. Sì, buonasera Antonio, buonasera. Le macchine una volta si capiva perché, una volta capivi il valore delle cose perché te le sudavi, te le lavoravi per comprarle, non potevi fare altro, perché decidevi di farti famiglia, di metterti a posto subito, e le donne, io ti parlo anche non di 70 anni fa, ma ti parlo donne, la donna prima era più assennata alla casa, era più padrona di famiglia, capito? Quindi erano poche, le donne diciamo poco sirie, non erano, le potevi contare nel palmo di una mano, quando cioè tutti si volevano sistemare perché avevano ricevuto un'educazione dei familiari che era quella della famiglia. E quindi le cose te le tenevi bene, fra, cercavi di ripararle perché i soldi ti servivano per la casa, per tutte, diciamo, le faccende domestiche, le cose di famiglia. E invece adesso l'era del consumismo, stavamo parlando proprio con Tino l'altro giorno, siamo arrivati all'era del consumismo, che le macchine, tutte le cose hanno una data di scadenza, come il latte, hanno una data di scadenza. E se sgarri quella data di scadenza vuol dire che l'hai tenuta maniacalmente oppure l'hai tenuto spento oppure non l'hai usato. Anto prima c'era un'altra cosa, un'altra mentalità, anche se vogliamo che era a volte sbagliata, perché siamo stati educati con la cosa del lavoro pesante, perché se non facevi il lavoro pesante il sud non era lavoro, perché se non facevi il lavoro pesante eri un mandrone, se non facevi il lavoro che facevi almeno 10 ore al giorno era vergogna per la famiglia, per queste cose qui. I tempi stanno cambiando, però hanno fatto da un estremo all'altro, hanno cambiato da peggio a proprio peggio, siamo la gente non vuole più far niente, adesso siamo nell'era del computer, quindi bisogna modificare gli stili di vita. Bisogna modificare il stile di vita, bisogna impartire un po' di educazione ai ragazzi, perché sembra che tutto gli sia dovuto. Vai, riprendi. Sono io? Riprendi tu. Ma io sono un po' confissato all'antica, se mi vedono mi dica che cosa strana. Per me è sempre lì all'antica, per me. Pace di caffiotto, cioè, perché deve rispettare il padre, la madre, e non deve essere cioè, stravagante, no, non voglio assolutamente. Cioè, con me deve comportarsi in diversa maniera. Si deve comportare in diversa maniera quando è grande, perché e deve rispettare la famiglia, e deve rispettare i valori, se no i noghi, no, non andremo d'accordo, no, assolutamente. Capo, vabbè, però Antù, quelle, ormai quelle usate dell'antichità è svanita, perché oggi il bambino, il ragazzo non lo puoi né toccare e né niente, anche si girano i dolori, insomma. Perché la legge protegge i bambini, i ragazzi, protegge. Con ciò devi stare anche attento su quello, devi stare. E loro, questi ragazzi ne approfittano anche, secondo me, per questo motivo qua. Però il fatto dell'antichità non v'è più, come ti quando ero minore io, i caffiotti a bacia all'asta, a colpi di zintro, a colpi di bomba e via. E va, non lo puoi fare più. Avanti, capì? Fra, non è che non lo puoi fare. Ripeto, adesso siamo in un'altra era. Adesso siamo in un'altra era che... Allora io ti dico una cosa, eh? Io ti dico una cosa, Franco. Mia figlia non ha mai ricevuto da noi uno sculaccione, niente, proprio non ha mai ricevuto uno sculaccione, però lì come gioca, fa, c'è confidenza, però capisce quando è no, sia con me che con la madre. Abbiamo cercato di fargli capire anche che ci sono delle cose che non c'è bisogno di. Lei non conosce lo sculaccione, lei non lo conosce perché, grazie a Dio, abbiamo educato in un modo, ripeto, che non al momento non c'è ancora stato bisogno di fare una cosa così. prima era anche troppo esagerato, chi pure io bigliavo i caffiotti, bigliavo a volte anche per la fesseria, prima però è così, adesso poi bisogna stare anche, diciamo, a passo coi tempi, perché il bambino non si deve sentire al disagio nei confronti dell'altro, soprattutto Antu te ne accorgerai quando inizierà ad andare a scuola. È così Antu, perché poi l'educazione ci vuole, ma non bisogna neanche impartirgli l'educazione dice mio padre così, mia madre colà, no, bisogna, tanto guarda, è in base al carattere della persona, mia, più le persone, ci sono stati amici miei che hanno bigliato, hanno bucato bucamare, no? Quindi ti bucati, eppure se dovevamo fare una stupidaggine la facevano, non gliene fregava niente, alla fine avevano il callo dei colpi, quindi ero vostro, intanto buco, ma non me ne ha fatto nulla, ero vostro lo matessi. E venivamo picchiati per essere picchiati dal padre, genitori, padri con le mani pesanti, avvero, mani pesanti avvero. Però alla fine ero gatto, è così, vai a torri prima. Ma noi ci stiamo accorgendo che Gabriele è molto... è un bambino, è dottimi, gli piace più giocare, fino adesso è così, è molto socievole con tutti, mi vabbè da dire, cosa c'è? Eh? È molto socievole anche con gli altri, si comporta, è molto buonaccione, fino adesso, poi vediamo più in là, quando cambia, vediamo più in là. Cosa fa, capito? Ancora è piccolino, non è così, ancora deve crescere per capirlo. Andrà bene, vabbè, cosa ci vuoi fare? Andrà bene, è bello che non conosce neanche lo sculaccione, è bello, vuol dire che è stata educata in un modo che quando gli fa, solo facendogli capire che certe cose non si toccano, non si fanno e queste cose qua, solo così, Gabri, avanti. Il fatto, poi tu puoi dargli tutta l'educazione che vuoi, né? Tu puoi dargli tutta, puoi prendere, dargli tutta l'educazione che vuoi, prendere, fargli capire le cose. Una volta che tu li metti, che vada ai nonni, finito tutto. Perché con i nonni è tutto permesso. Con i nonni tutto è permesso, tutto si può fare. Io le cose che facevo, le cose che mi hanno preso, i miei genitori fanno fare a mia figlia, io a casa di mia madre proprio me ne scordavo, capito? Nel senso che ti posso dire una cosa, a casa di mia madre non potevamo entrare neanche in soggiorno noi, cioè giusto per farti capire, no? Non potevamo entrare neanche in soggiorno, a sederci nel divano non si poteva, perché era tutto pulito, tutto fatto, in cameretta a giocare non si poteva entrare, giochi in cucina. Se tu vai adesso a casa di mia madre, quando c'è mia figlia, sembra che è scoppiata una bomba. Se tu chiudi una bomba nella tua casa non fa del suo casino. Eppure qua a casa cambia, invece da loro, ma sia da una nonna e sia dall'altra. Quindi anche quello bisogna valutare. Poi magari a volte li metto io in mezzo e dicono ma non vi è nulla, finito, anche quando mi muovo in mezzo e vedo dei venire da tutte e due le parti, fin quando faccio fare è buono, poi quando mi metto a dire le cose, poi ma tu sei troppo severo, non sono severo, è quello che bisogna fare, a chi è la meravigliura, compreso? Adesso, io la penso così, comunque. Va bene, Ebbene tu, fatto la serata sabato? Fatto proprio, fatta una serata mia di karaoke. Adesso mi ha chiamato Gozzo, Davide Merlini, mi ha chiamato e domani c'è una buon'orva. Dobbiamo allestire un carro. Beh, fratto. Cappa. Un carro, ma carro di per il carnevale? Fa musica, mi hai capito. Mi ha detto così, mi ha detto lui. Di sigarre, dobbiamo piazzare l'impianto e suonano. Capito? E via. Ogni tanto lavoro anche con questo qua, lavoro, capito? Ogni tanto mi chiama. Avanti, capito? Sì. Già lo conosco di vista, non lo conosco personalmente, ma lo conosco di vista. Prendi tutto e tutto va bene. Va bene. Tino oggi non li vuole sapere, Tino non le vuole sapere, oggi è una senteista che non ne può più, è una senteista. Fra. Ieri. Era rientrato stanco, si sta riposando, fa bene, si è arrivato stanco. Sì, immagino, magari è stanco e non ha voglia. E adesso io mi altri 10 minuti, poi chiudo le trasmissioni. A nanna. Io pure stamattina mi sono pensato chissà, Però, diciamo che io il pisolino me lo sono fatto anche stasera e mi sono riposato. Invece Tino ha continuato a lavorare. Io me l'ho fatto da quando abbiamo chiuso, che è arrivata la moglie, fino alle 8:15. Mi sono messo nel divano qua, stavo ascoltando tranquillo e mi sono dormito una mezz'oretta ascoltando, ero 40 metri e mi sono addormentato. Poi ho preso, mi sono svegliato e ho acceso il coso, ho commutato l'antenna e niente, e mi ho messo qua in 27. Vai Antonio, riprendi. Cappa. Ma in quella frequenza lì, con la verticale che ho io, avendo un apparecchio adatto, si può ascoltare o no? Non funziona o non risuona in 40 metri? Certo che puoi ascoltare, Antu. Certo che puoi ascoltare. L'importante è che non vai, cioè se c'è un apparato va bene anche un 140, commuti e vai. L'importante è che magari non vai in trasmissione o non schiacci involontariamente il mic, perché se non risuona fai di stazionare, cioè stazionare e bruci. Ma Antu, a fare il dipolo per i 40 metri non ci vuole niente per ascoltare, capito? Ti fai un dipolino per i 40 metri, due braccia, bastano due braccia a 10 metri l'uno e già senti che copi già gli 80 metri, i 40 metri. E niente, no, io faccio radioascolto adesso, per esempio questa qua è tutto il giorno, perché io giro libero, è tutto il giorno accesa, questa radio qua è tutto il giorno accesa oggi, non l'ho spenta un attimo, da stamattina alle 5:30 è tutto il giorno accesa. Adesso se io vado in 40 metri, vai in 80 metri, ho segnali, vabbè io ho le antenne, io ho dei dipoli proprio dedicati, mi franco li ha visti, fallo tranquillo, arriveremo a segnare le 9.20, 9.30. E sono accordato, per esempio, il dipolo che ho io, quello per gli 80 metri è accordato a 3.650. Quello per i 40 metri è accordato a 7.115, 1 euro. C'è l'antenna adatta, c'è io. No, io ho piazzato solo questa, cioè come discese, buh. No, non ne ho altre antenne. E comunque, sì. Adesso un indomani, io già ce l'ho avuto anche quella, ma mi pare che già vira via. Ce l'ha avuto il Kenwood, ne ho avuto due, adesso boh, un indomani magari mi setterò in testa e me ne comprerò qualche uno buono di questa radio così. Ma basta pigliare una radio, comprare una radio di chi si è venditi baracchini e tutte tratte solo una radio, senza alzare come le cose. Oioia, vai fra riprendi. Cap. E tu, non ci vuole l'antenna giusta per ascoltare in 40 metri. Io ascolto con la Mantova, ascolto, c'ho un affilare che è piccolina, e ascolto benissimo. Poi, l'antenna giusta o il dipolo giusto, come sta dicendo Gavino, è bello farlo perché a parte che ricevi molto di più, ricevi più bene e tutto, e in più se uno ci vuole parlare ci parla, naturalmente se hai le possibilità di parlarci, se prende la patente, cosa così, mentre con la Mantova oppure con l'affilare che ho io non è che ci puoi parlare, non puoi neanche schiacciare, capito? Se va a Cogliadori, sì, ma comunque, più che altro, ma mi pare che io prima ascoltavo anche le reti, di tutto ascoltavo con questa Ringo qua, prima, quando ce l'avevo nell'altra casa, che c'avevo il Kenwood. Ah, vabbè, il macchinetto lo uso, cioè, l'avrei usato qua in camera. Però sto pensando veramente di prendermi più in là, non adesso, quando potrò, di pigliarmi qualche cosa del genere. Capo, è una radio, una KF, puoi ascoltare in tutte le bande, capito? Anche come il Kevond, uguale, una KF bassa, è buono, ti prendi, tanto, non è che cosa ne il tuo granché mi. Penso che ho bisogno di trovarmi da comparare, ma non va però, più là, con l'MC60, che io lo usavo molto, quello mi piaceva un bel. Capo, io adesso sto usando lo stesso, il K sto usando il 680 con l'MC60. Ma con la V io pompava forte. Capo, vabbè, è da vedere come... Cosa gli hanno tirato? Se gli hanno tirato il collo. Avanti, capi. Antu, guarda, io sto usando un ICOM adesso. Io sto usando un ICOM IC737 e l'MC80. E qua non c'è neanche bisogno di commutatore d'antenna perché c'era lui, due ingressi di antenna, capito? Ha antenna 1 e antenna 2. Nell'antenna 1 ho la verticale e nell'antenna 2 ho il dipolo. Nel 450 ho l'antenna ai 40 metri e la verticale lo stesso. E poi ho la 50 più piccolina del superstar. Finito. Io perché ho il porto per i cosi, per i dipoli lunghi. Penso di pulirmi su lunghi, io quello per gli 80 metri hai 20 metri per braccio, col 20 metri per braccio caricato con la trappola, e quello dei 40 metri e 10 metri per braccio con la trappola lo stesso. Però però abitando, cioè se avessi stato impalato, guarda, io ho un'antenna e una lupo magnetica, che l'ho pagata una fesseria, ma una fesseria veramente, e con quella ascolti lo stesso, ed è piccola, la metti nel terrazzino, se uno vuole può fare, ormai ci sono dei progetti, ci sono delle cose che può ascoltare anche con un filo da stendere, quindi non è che ci sono tante cose da, sì, un po' di manualità per costruirla ci vuole, però c'è questa MLA30, questo cerchietto, questa cosa, questa scatola amplificata con un loop di 2 metri lungo e di circonferenza, mi sembra essere 50 centimetri, così è, fra, se non sbaglio. E ascolti, diciamo, tutte le bande 40-80 metri, te le ascolti. Anto, quindi anche da mettere in terrazzino senza stare sul tetto. Vai. A voglia, e ci vuole la radio adatta, ci vuole, che io non ho, adesso vediamo, prima o poi me la torno a ricomprare qualcosa, vediamo cosa prendere. Prendi Iaesu, Proicom, Iaesu, però vabbè, a te ti piace entrare in 27, buro, con queste radio, con quelle radio lì, quindi... Io ti consiglio, ma non perché ce l'ho io, un 450, un TS 450, guarda, è l'ideale, accordatore d'antenna, ai filtri, a tutto, e lo trovi anche a 400 euro, poi... Io per esempio l'ho comprato piano piano, io ho comprato il, prima avevo comprato l'ICOM, poi avevo comprato il 450 e aveva l'MC80, poi avevo eliminato l'MC80 perché l'avevo messo nell'ICOM, e nel 450 usavo prima l'MB+4, poi mi avevo comprato il Turner e poi l'MC60. Piano piano riesci a farlo, non ti preoccupare, però non stare a prendere 4,40, queste cose qua, perché intanto sono radio vecchie, ma proprio vecchie che ti daranno prima o poi il problema. Il 4,50 è vecchio, però è già una RAM, è un semi digitale, è diverso, mi franco, l'ho visto funzionando il mio, ed è perfetto, è impeccabile, questo io è proprio impeccabile, fra nuova è quella io. Ehi, tutti e due sono nuove, caspita, come un graffio. Tanto quindi tu ti cerchi una radio anche da spendere 400-450 euro, piano piano te la prendi, però non sta attaccato alle dicerie 140, 440, 430, guido, guidaccio, se ti devi comprare prenditi una radio già che abbia qualcosina di filtri e queste cose qui. Intanto il prezzo è uguale, guarda, i prezzi sono uguali, paghi un 4,40 o paghi 400 euro e un 4,50 o paghi 400 euro, ma niente a che vedere. Però poi c'è chi dice, poi ci sono i vari, e io ti parlo da possessore di 4,50 e ho provato anche il 4,40, ma non, cioè il 4,50 è molto meglio, molto meglio. Ho capito. E allora, adesso più in là vedremo. Ma vanno per la vostra compara nuda. Quando sarà appena un ritmo che rientrerà al lavoro e cosa, appena un ritmo vedremo. Ma non se ne parla proprio. Ma proprio non se ne parla di comprare niente adesso. Ma assolutamente. Non è che. Ma guarda che tutti siamo così. Tutti, io tutti, persone che navigano nel lusso, adesso ce n'è ben poche, quelle che navigano nel lusso vuol dire che hanno tutti la papa pronta, o sono tutti dramposi, perché chi lavora onestamente, io sono convinto che non ne fai che dei soldi, e chi lavora onestamente non ne fa. Finito così, quindi a futidini della radio, io le ho comprate e me le tengo, altrimenti non avrei neanche comprato, ma proprio, cioè, non è che vado a vendermi la radio per comprare, a scambiare, no, rimangono queste, e quindi nessuno le tocca, nessuno le fa, sono nuove, sono revisionate, tutti e due da Bianconi, tutte e due spedite da Bianconi a revisionarle, e quindi sono a posto. Vai Franco. Ecco, sì, e beh, le radio quando sono revisionate tutto, e trattate bene, vanno sempre alla grande, vanno. Purtroppo qua non abbiamo uno che le aggiusta queste cose, che le revisiona, e tocca spedire tutto fuori, e fuori è un casino spedire, perché è un grande casotto, purtroppo, perché rischi o di non vederla più la radio, oppure di arrivarti tutta spaccata. Avanti a tu. Questo Bianconi me ne hanno parlato molto, molto, molto bene. Dice che è uno dei migliori facendo queste cose qua. E io la mando, io a lui gli ho mandato una radio, mi ha dato questo usando adesso, me l'ha rifatto Bianconi. Che avevo fatto un danno e me l'ha riportato all'originalità. Perché qua io quando l'ho comprato questo qua non ero sicuro se era stato toccato, scacciavittato, e gli ho detto guardi, ho questo problema con la radio, gliela ho detto sì, la mandi, gliel'ho mandato e gli ho detto guardi, se ne vale la pena la riparo, altrimenti niente, potrei anche lasciarla lì, no, non mi interessa. Ho detto no, guardi, la radio ne vale la pena perché è una radio originale, non è mai stata manomessa, non è mai stata, addirittura mi sembra proprio che lo chassis non sia mai stato toccato, quindi allora l'ho fatta riparare, si è preso 200-250 euro più 50 euro di spedizione tra andare e tornare. Mi è sparita la radio 15 giorni in viaggio, che si è persa a Bologna dopo che è stata riparata, capito? Dopo che è stata riparata la radio, lui l'ha spedita, dopo 3 giorni che l'ha spedita è stata persa la radio e mi è arrivata dopo 15 giorni. Quindi ero un po' così. Lo stesso il 450 è stato portato a revisionare, è stato mandato a revisionare ed è a posto, perché aveva, per farlo controllare se non era stato scacciavitato, quindi sono tutti e due a posto, tutti e due so che adesso, cioè ce li ho io e sono usate con criterio. Tu pensando che una volta questa radio qua ho sbagliato, non so cosa sia successo, e Franco è testimone, è rimasta 43 minuti in trasmissione, importante, 43 minuti, ero al telefono fuori con un amico una notte, 43 minuti, mi ha chiamato Franco, mi chiama Vattino, dopo che ho visto che mi stava chiamando Giulio, ho detto qua c'è qualcosa che non va. Entro qua in camera e vedo la radio in trasmissione, non puoi capire, e ho detto qua ho fatto danno, non gli ha fatto niente, 43 minuti in trasmissione, a posto dell'antenna. Quello sì, si è entrata la ventola e ha raffreddato il finale, quindi no, non è successo niente, diciamo. No, fra, quello non è QSO. Il QSO è un'altra cosa. Il QSO è quando magari prende e si spegne, non fa niente, quando si spegne non fa niente. Quello lì è avere un'ottima antenna senza un briciolo di stazionarie, perché lì anche se c'è un E2 di stazionarie, la radio più di un quarto d'ora non la lasci in trasmissione. Quello è avere un'ottima risonanza dell'antenna, stava viaggiando. E poi ha fatto un buon lavoro anche Bianconi, fra. Sì, quello senza minimo dubbio. Caspita, ha resistito parecchio quell'affare lì. Infatti non riuscivamo, al telefono non riuscivamo neanche a contattarti, né al telefono da nessuna parte. Quindi, sintomo che... diciamo che è a posto e che... perché poi... hai visto che la stavo provando dopo che è successa quella cosa lì? dopo ho continuato a parlare, non è che l'ho spenta, Anche dopo che ho fatto questi 43 minuti di portante, non è che l'ho spenta. È il bello che eravamo anche in AM, quindi la portante fissa, capito? Eravamo in AM. E non è che l'ho spenta, non è che poi l'ho spenta, ho continuato a usarla, perché se la spegnevo secondo me era peggio. Ho continuato a usarla tranquillamente, poi ha raffreddato, era bollente, stava bollendo, era bella temperatura. Però dopo ho continuato a usarla, ho fatto un po' di passaggi, un po' di... è a posto. Ah, sicuramente è entrata la ventola, penso che sia, io ce l'ho avuta e quando scaldava entrava la ventola. No, questa qua, come tu schiacci la portante, ha la ventola che prende e va sullo stadio finali e poi dopo che vai, che rimani non so quanto in trasmissione, la senti proprio, la vedi proprio che aumenta di giri, capito? Era proprio... Antonio, infatti ti ho detto non comprare radio, che ti sto dicendo questa cosa qua, fate capire, non comprare radio antiquate, queste qua sono vecchie, cioè è una concezione vecchia, però già con fatte in un certo garbo. Secondo me che HF lo fai allo zocco, dici a Gabisturia. No, ma molti hanno la protezione, quindi ti si suda, no, non va più in trasmissione. Sì, secondo quello poi esce un fumo, però meno male che c'è la ventola sempre andando, se no tranquillo che te l'avrebbe crepato, O forse è entrato in protezione, perché molti ce l'hanno la protezione. No, no, no, ascoltavano tutto quello che si faceva nel mio QRA, perché il microfono è molto amplificato, quindi sentiva tutto. Così è, fra. Sì. Guarda che c'è poco di avere la protezione quando è così. Io così ne ho bruciato una, sì, 80 ho bruciato. E Lampado, Lampada, chi non ne valeva bene a via Consalo, elegante la vice. Cosa il finale vi è bruciato, fra? Lui sei stato zitto per sempre questo. Ma non ne valeva la pena aggiustarlo dal danno o perché era molto vecchio? Ma era molto vecchio, era bussamare, burro era la radio, era un po' che bussamare, torraffiata era, poi ci aveva anche un altro problema nella scheda, ci aveva, la gibbellata ci trovava a far culo, piglia, ce l'ho buttato. Ma sì, no vabbè, pensavo che l'avevi buttato perché ti siamo bruciati i finali, ma se era una radio che era già graffiata, vecchia, queste cose qua, hai fatto bene. Io a Puglia, sì. E poi cosa avevi preso? Un altro 680. Tu sei partito per il 680, che ti piace proprio il 680? Ma mi piace perché in cambio, a parte del 140, c'è qualcosina, ma leggermente qualcosina in più, non mo. Come l'amplificatore, come si chiama? di 6 metri, c'ha qualcosina là. Sì. Beh, 140 va bene per la 27. 140 va bene per la 27. Pochi watt, gli dai pochi watt, gli metti un bel microfono a far male, di quelli, metti anche il Turner a 140, che è buono, un bel amplificatore da 1 kW, anche quelli per la 27, gli dai 5-10 watt di ingresso, e lo buon per 140. Tanto prendi, dice che ALC prendi, basta non toccare i watt. Perché va bene, se uno per esempio alla radio si prende una radio per ogni cosa, per esempio per la 27 uso 140, lo regolo comunque i watt, non me ne frega niente, solo per la M, e li metto un amplificatore, così allora spingi. Bello, ci potete buono un amplificatore in mano, che se no se li buono un amplificatore da 100 watt non li va bene. Però se inizia a mettergli una bella bestiola a kilowatt o da 2 kilowatt, allora di lì la cosa è differente. Io volevo fare così, una per la M, una per l'FM, una per la banda laterale. Ma Ravini va giù in sada, giù detto, ma cosa mi nafutti, ma per piacere, ma per cortesia. Ma per cortesia, vai Antu, faccio altri due passaggi e io chiudo la trasmissione. Comunque sicuramente te l'ha salvato quello che magari riusciva a raffreddare. No, non te l'ha fatto, mica 43 minuti sono ben, o quanto era. Cavolo, cioè, sempre andando in questa cosa. No, anche io a stazionare sono messo benissimo, Ma così muovi l'ago. Chiedi a Giovanni, c'è Franco. Cioè, guarda, in trasmissione c'è Franco, quindi puoi chiedere a Franco, puoi chiedere a Giulio e puoi chiedere a Tino. Giulio ha contatto esattamente quanto ero in trasmissione, 43 minuti. 43 minuti di trasmissione, anche perché la chiamata con questa mia è durata 45 minuti, quindi i conti tornano, 43 minuti. Vai Francolino. Sì, no, già è vero. Poi, 680 con 140 sono uguali, C'hanno anche i comandi uguali, tutto uguali, a parte che questo c'ha i 50 MHz e l'amplificatore in più, poi il resto non c'ha niente in più, è preciso identico. Sì. Ma vanno benissimo qua. Non inutile stare a spendere soldi, stare a investire per cosa. Secondo me è meglio più sperimentare che stare a cambiare il radio. Intanto una volta che cambi la radio, sì, e beh, come esco qua, sembra una stessa cosa, sempre lo stesso discorso, non è che il discorso cambia. Invece quando stai a sperimentarti le cose tue, a fare così, ti diverti e ti passa anche la mania di spendere soldi in radio, per come la vedo io. Poi sbaglierò, se sbaglio sulla mia pelle, però io preferisco più stare di lì a sperimentare, a farmi le mie modifiche di antenna, cose, quell'altro, guarda ancora, piuttosto che lasciare. Sì, siamo 2705, buonasera. Sì. Quindi secondo me è inutile stare a spendere soldi in radio. Vai, riprendi Franco, credo che stia per entrare Tino. Pick up. Scappa, è così, è proprio inutile stare a spendere soldi in radio. E vabbè, niente di cosa. Avanti Tino, se ci sei. Penso, credo che rientri fra, un paio di minuti. Anto riprendi e io rientro subito fra, capito? Quindi Anto fai girare di nuovo per Franco, io rientro subito che devo prendere un medicinale, dai, entro subito. Eia, va bene, va bene, va bene. Vai, vai, tranquillo, siamo qua. Avanti Anto. Tranquillo, Gabri. Tranquillo, già siamo qua. Oh, yeah. Mero appena con l'assente, perché c'è caldo, c'è la stufa accesa e si sta benissimo qua. Cappa, anche qua c'è me, c'ho 27 gradi, me c'è sta. Voglia. Ci siamo, buonasera. Buonasera a lei. Sta uscendo il microfono, sì? Voglia. Esce anche bene. Perché ieri mi ha dato problemi fra. Per quello te lo sto chiedendo. Va bene, ciao Antonio, ciao Franco, presumo che Gavino si sia spostato perché l'ho sentito. Ok, dai, mi stavo mangiando un pezzettino di frittella e quindi dovevo temporeggiare un pochino prima di mettermi a parlare. Che fa tua moglie o le compri? La lami funziona bene. Poi la proviamo con te. Vi siete sovramodulati, fra, dimmi. Ho detto che ho piazzato quella là, quella che ha fatto, e poi la proviamo. Sì, ma io ci sono lì. Io quando accendo, accendo entrambe, quindi quando vuoi. Ti devo dare una delusione, perché ti ascolto come quando ce l'avevi sopra il tavolo. Sì, non arrivi neanche 5. È così, è così. Vabbè, puntata a Sassari, cosa c'entra? È sempre una verticale. Non arriva. Non lo so, fra, non so cosa intendi per puntarla, perché se vai in verticale dovrebbe andare bene comunque, come la piazza la piazzi. Davi, tu sei fondo scala. Dici? Sì, qua non arriva neanche 5. Non lo so. Se tu hai la sessantenna, sei un tiro di schioppo, sei fondo scala. Però Franco ha peggiorato, anzi forse andava meglio sopra il tavolo. Sì, sì, fondo scala, fondo scala. Non so cosa dirti, Gaffi. Hai provato, fra? Un attimo che la sto collegando. Bene. Ti prendo subito. Non arrivava. Ho aperto anche lo squelch, nulla. Tu non lo senti, vero? Tu? Attivo. Ho aperto anche lo squelch per vedere se arrivava. Non arriva. È basso basso, anch'io lo ascolto basso basso. Non so cosa fare. Ma Gavino l'ha girata, no? Io sentivo sempre prima. Sì, un po' l'ha girata, per quello, l'ha puntata verso di me. Perché lo sentivo sempre io. Adesso invece non hai sentito neanche a Gavino, vero? Capo lo squash. Allora, aspetta un attimino, Anto, che mi devo spostare 2 secondi. Ma prova Gavino, tu mi senti a me? No, non mi sento, ma con lo squash aperto. Non è favorevole a qua. Gabi, ti ascolto basso basso, gira l'antenna, se no tanto vale, non ti sente neanche Antonio, eh. Allora, guarda se mi copia, sto piano piano sta andando, Guarda un po'. Guarda, eccolo qua. Ci sono adesso. Adesso sì. Ti sento anche io. Aspetta. Aspetta, lo sul tetto. No, ora già lo sento. Ma perché non c'ha motore, per quello è così. Eccomi qua, dai. L'ho fatto entrare perché sennò mi fugge. E cosa, Lugani? Sì, aspetta, Franco sta facendo una prova. E poi mi devo allontanare un attimo. anche io. Va bene, va bene. Sento il cane. Mi è fuggito di nuovo. Non è che è innamorato, no? Gli animali molte volte scappano per questo motivo. Scappa qualche cagnetta. Cagnetta in calore c'è, cioè, non so, se no non si allontana lui. Sì, sicuro. Ha detto ciò, tutto ciò. Tutto è. Io vi saluto, che domani si va al lavoro. Domani. Domani presto. Domani alle 11 devo già essere là. E via. Ok, buonanotte a tutti. Buonanotte a te Tino, Franco e a te Gavino. Ciao ciao, buonanotte. Io mi addormento, domani è pesante. Mi andrà buon orfa domani. E via. Ciao ciao, buonanotte. Va bene Antonio, dai, ti saluto, buonanotte a te e al tuo quadrante familiare. Alle 11, caspita, nel cuore della notte proprio stai andando. Alle 11 ho già fatto una giornata di lavoro io. Va bene, eh? Riprendi Fraci, sì. Domani mattina. Ok, chi sta andando via? Antonio. Ah, ciao Artù, ce ne ascoltiamo alle prossime, dai. Scusa se stavo facendo queste prove. Ciao Antonio, buonanotte, ci sentiamo alle prossime. Buonanotte, no, domani mattina ti devo lavorare. Devo andare, ne avrà mai finito a luna di notte, alle 3. Ciao a tutti.